posto di lavoro, un posto per campare, un posto per non stare in strada sempre a cazzeggiare. Dammi più fiducia adesso, per poter guadagnare senza farmi condannare. Io un posto per la gente che non posso più scordare. In fissa per un posto fisso, poi passo da fessa. Sta alla vista la lista del prossimo sequestro. Se è questo ciò che contesto, contesto in guardia ad ogni tuo gesto. Resto spesso indietro alla moda. La società ragiona male, vuole correre ma inchioda. C'è chi mi loda e chi mi odia. Chi vuole mettermi in custodia, intanto mettetevi in coda. Bevo un Campari Soda, sto a bancone alla tua festa. Gli occhi sono quelli di chi ha troppi cazzi in testa. Il volto di chi ha lottato, di chi conosce il dolore. Ma la ferita nel cuore non si nasconde col maglione. Non ti serve il medaglione per far conoscere il nome. Salvatemi dalla generazione delle parole. Parole, parole, fino allo strazio. La generazione del solo io migliore. Tu non sei un cazzo. Dammi più fiducia adesso. È un posto di lavoro, un posto per campare, un posto per non stare in strada sempre a cazzeggiare. Dammi più fiducia adesso, per poter guadagnare senza farmi condannare. Io un posto per la gente che non posso più scordare. Dai le colpe alla vita, ti passa e sono troppo stronzo. È mezzogiorno e non si scherza. Scusa se ti interrompo a bocca piena, non rispondo. Parliamo quando sei sbronzo, che sia cena o sia pranzo. Mangiamo i primi in un secondo, a fondo. Tra il bene e il freghismo in circolazione. Una reazione psicopatica, giusta definizione. Quando finiranno assegni, bonus di disoccupazione. Conta un criminale in più in circolazione. Crisi e cervello, crimini senza violenza. Per questo non mi sento sporco nella coscienza. Gridi ma bello, io preso quello che pensa. Questa gente è sorda e in tanti han perso la pazienza. Dovrei sposarmi, dimmelo dai. Magari con una di quelle che accetta il di me la dai. Che vuole Mediaset e Rai sulla parabola di Sky. Che d'estate non ci viene in Calabria, vuole gli Hawaii. Dammi più fiducia adesso. È un posto di lavoro, un posto per campare, un posto per non stare in strada sempre a cazzeggiare. Dammi più fiducia adesso, per poter guadagnare senza farmi condannare. Io un posto per la gente che non posso più scordare. Scrissi il primo testo che ancora vestivo picco. Arriva alle medie e avevo già preso il picco. L'abitudine è come quella del ciclo. Dicevano scrivi che a 20 anni diventi ricco. Qualcuno giurò che sarei diventato un divo. Chi mi avrebbe arrestato mostrandomi il distintivo. Dicevano studia, trovi un lavoro fruttivo. Sicuro nessuno di loro era sensitivo. Sento gli anni passare veloce come stoner. Ma la terra sotto i piedi cazzo è ferma, non si muove. Sto nell'ambito dove più nulla è chiaro. Qua il denaro non è tutto, è tutto con il denaro. Tu mi confondi le idee, già son confuso di mio. Mi chiedi fiducia in c'è, io manco credo in Dio. Qua chi ha il potere mangia, riempie le tasche e la pancia. Manda i tuoi progetti in fumo proprio come con la ganja. Dammi più fiducia adesso. Ho un posto di lavoro, un posto per campare, un posto per non stare in strada sempre a cazzeggiare. Dammi più fiducia adesso, per poter guadagnare senza farmi condannare. Io un posto per la gente che non posso più scordare. Scordare.